Talasera. Talasera no, io sono arrivato, non mi ricordo neanche, sono andato a fare una commissione prima. E via. Io vabbè ho acceso tardi, stavo facendo qualcosa da mangiare, eccetera. Stavo ascoltando un po' di attore, ma stavano facendo prove intricate, non capisco l'oggetto da contendere prima. Luca, anche tu stai studiando per la patente? No, non sono quello che hai fatto iniziare, lui. No. Ci sono altre cose, per il momento no. Mai più in là, vediamo, da. Più in là si vedrà. Andiamo in coso, dobbiamo di qui, comunque all'armato, ne togliamo l'apparecchiatura da dentro e te la porti a casa. Ci facciamo una frequenza nostra, Marco. E ci manca a me, non basta che facciamo casino 27, in PMR, poi in banda amatoriale, poi ci cacciano. No, lì facciamo i sedi, no, se no, e qua vabbè, tanto qua, ma lì no, non si va nei litigosi, capito? Non si fanno. Disponibile il quadrato in carica, se avessi stamattina a Garigheggia, ma tipo po'. Già sono qua, non fuggo. Scusando il Saturneco, Marco. Bene, va, sì. Così ma non ti ho mai sentito. Bene. Meglio così, adesso non me lo sta più facendo un difetto, visto? Una volta che è scaldato, siccome è rimasto quasi 2 settimane a freddo fuori, meno 2 gradi, io ho preso l'apparecchio, gli ho detto Giovanni, ho detto mettimelo dentro la cosa, un mobile, gli ho detto solo, ho detto, mi tocca prendere, detto, il condizio della mordezza. Adesso che è stato tutta la sala accesa, adesso è perfetto. No, sì, bene, pompo, bene, io certo così bene non ti ho mai sentito. Ottimo, più che ottimo. Già lo so. C'è un po' buia la foto, va bene. Che foto qua? L'apparecchio, è un po' buia, devi ingrandirla, vabbè, mettere un po' di luminosità. Se metto il flash viene tutto bianco, se no. Mazzo, bello. Sì. È sotto il 3009, giusto? Se noti, guarda come lo sto trascurando, è tutto impolverato, guarda. Sulla cornice, tutto polvere. Ma ne sta scendendo un po' il 3009, perché si sta spostando con gli anni leggermente indietro in frequenza. O per meglio dire avanti, sta scivolando in avanti. Per cui per centrare voi devo spostare tutto il clarifiere a sinistra e certe volte non basta, anche quando è caldo è troppo avanti in frequenza. Bisogna dargli una... però ho fatto con strumenti di laboratorio, una bella centratura a caldo. Ah, in mando in AM? No, più che altro in AM, me ne accorgo. Se c'è uno appena spostato, qua risulta molto spostato. Ciò non è bello. Poi quello, addirittura quello col display rosso, che gli si è fulminata la lampadina, l'ho accantonato, lo sai, per non aggiustare una lampadina di Smith l'ho accantonato, fermo dall'inizio del Covid, credo. La mia è perfetta, il mio ha anni, ma sono anche 2 anni, 2 o 3 anni questo apparecchio, ma perfetto. Io sono da parecchio, forse 2000... Guarda, quando ho messo l'antenna ce l'avevo già, tipo 2012-2013 credo io averlo preso. Ce l'avevo già quando ho preso l'antenna Ringo. No, forse c'è una fesseria, c'è un bel di più di anni, un bel. Non lo so, comunque c'era più anni. Allora, quando mi hanno fatto le foto, bastardo, non si vedevano i graffi. Sì, no, non c'è un graffio. Ma poi li ha fatti in modo che non si vedessero i graffi. Infatti poi quando è arrivato, la mascherina graffiata, sopra un po' graffiata. I coperti vanno di chi? Infatti, i coperti li ho comprati da Gianni. La mascherina, qualche... Un po' meno del canale, è tutto... mezzo, sai, la cromatura, no, che c'è sopra a molle, vi capito. Allora mi ha dato Gianni, mi ha dato la mascherina nuova, qualche pomello e i coperti, adesso è nuovo. praticamente ha photoshoppato la foto per non far vedere i grafi e i difetti. Esatto. E poi manco la scatola abbiamo mandato, bastardo. Volevo la scatola, vabbè, pazienza. Ma tu volevi la scatola? La scatola, e allora? Quella con la scritta Superstar che ci ha disegnato un camion a colori. Sì, proprio quella, sì. Oh, ci tenevi a avere la scatola? Io ne ho due, mi. Ne ho due, ma per scena, per così, per gusto. Se ne hai due e una non ti serve, dammela. Tanto se mi può portare una compita te la controllo io, se no c'è nessun problema. Se non fa il PC, non riesco a cavarmi a piedi, dovremmo fare delle misurazioni con il tester. E così mi accorgo subito. Voglio capire, perché la KP è molto difettoso, molto difettoso su quell'atto lì. È difettoso perché magari ci sono quelli, per esempio io ne ho uno, me l'hanno regalato, metto caricabatterie, fa parte, poi si spegne, è una scheda madre, è andata. Sicuramente ha lavorato con la ventola sporca, non so, qualcosa ha bruciato sicuramente. Comunque se vuoi Marco, ti sta impegno, poi se non va, ti richiamo, vieni, te lo prendo lì dietro, te lo porti di nuovo a casa. Te ne stacchi i pezzi buoni, tipo l'hard disk, la RAM, poi non so, il pannello LCD, capita, magari a me serve, nel senso, faccio qualche secondino, te lo faccio rimediare. No, è obsoleto, blu. Allora, quell'Acer, questo che non parte più, è del 2005, ormai siamo arrivati a classi superiori di tutto, di schede madri, di velocità del bus, eccetera, quello è un dinosauro. Ma si è andato bene però, un giorno di botto ad accendere, cioè non capisco. Boh. Vabbè. Prima mi ha detto un HP, adesso un Acer. No, scusa Lu, l'Acer è quello vecchio, XP, HP è Windows 10. Ah, chi che non va l'Acer? Ma grigio o nero? Grigio, coperchio grigio, tasti neri, ha tirato avanti un bel po' e ha voglia. L'altro è tutto grigio, cioè io già mi trovo bene, non è che... Perché l'altro è, cioè, poca roba puoi fare con quello vecchio, potevi. Se non funziona, cassonetto, gli levo l'hard disk, lo metto nel microonde e lo faccio a rosto l'hard disk. Scusate, c'è una sedia, quella, come è, vabbè, non lo sa. Ti dico il modello, aspetta che rilanciamo un pomponio anche. Allora ti dico il modello, Acer, ti dico come è scritto, Acer Aspire 3002LM, Lima Mike 3002LM. Aspetta, come aprire internet così, si chiama Acer Aspire, Aspire. Poi c'è questo che sto provando io, è un Acer Aspire 5734Z. No, ma sai perché te l'ho detto come è scritto? Perché a uno gli avevo detto non è CB, Acer Aspire aveva scritto Aspire. Come ci... Sta aprendo internet che sta caricando, se qualche aggiornamento è un po' si rallenta. Allora, Acer Aspire, mi hai detto, ripeti? 3002 3002, Mike. Acer Aspire, no, non esiste, vediamo un po'. Questa, ok, Popo, ci sei? Ehi, sono qua. E buono, non me lo dà questo... Mi sta a vedere. Allora, ok, è ok. No, non me lo dà Marco. Aspetta, vado su eBay. Io già lo credo, è roba delle... è obsoletto. E invece che è nonno, al limite puoi trovare la foto su internet, ma non trovi nemmeno specifiche nel sito, nel prezzo, credo. Ci provo. Allora, questo è cazzo, c'è la Spy 57, no, sai che non c'è Marco. Allora, c'è la Spy 3200LM. No, io come ho detto 3002, intendevo proprio quello, 3002. Ah, 3002, giusto? Ehi, vediamo se su eBay, almeno le foto, almeno vedere le foto. Eccolo lì. Su PC click e poi Ice Cat, Ice Cat Beats, sì, già è quello. Già che su Balazzoni. Ma vuoi ridere? Lo stavo prendendo 100 euro più 20 euro di spedizione. E ce l'avevo uguale pure io, quello, ce l'ho buttato. Lascia vedere. Sì, ce l'avevo uguale. Picchia, ma proprio vecchio che nonno. No, vabbè, lascia vedere, guarda, ce n'è un altro qua. Guarda, aspetta, 5100, però sono simili comunque. Per carità, ma fai vedere un PC così, non ho capito. Anzi, all'epoca era anche economico. All'epoca, aspetta quanto costava, boh, non me lo ricordo. L'avevo preso da Auchan. Anzi, ti dirò di più, il primo preso era difettoso, aveva problemi d'avvio, proprio al boot. Allora me l'hanno sostituito, proprio sostituito, all'epoca non erano... E il secondo era perfetto. Ehi, ehi, vecchio, vecchio, io ce l'ho buttato uno così. Accendeva, L'ho caricato, stavo per un attimo, poi iniziavo ad avere problemi, forse perché magari c'avevo poca RAM, un giga di RAM. Anzi no, aspetta. Sì, 512, un giga di RAM ci aveva. Sì, 512 giga di RAM. Però la scheda video è condivisa. E quindi la scheda video ti ruba 64 mega di RAM dalla scheda video. Quindi 512 meno 64, fatto il conto, quindi la RAM risulta un po' inferiore perché adesso è usata dalla scheda video. Pensa, la scheda video non c'aveva manco la memoria sua, ce la rubava dalla RAM, memoria condivisa. Sto mandando un messaggio. Antonello, allora, cosa ci racconti? Cosa vuoi ti racconti? Dubla. Mi adesso ti aggancio un apparecchio che piace molto anche a te, aspetta un attimino, vediamo come mi senti, con microfono suo originale. Dammi la verità Marco, così non l'hai mai sentita pomponi, oh, bene, bene, bene. Sì, devo dire che oggi sta persino uscendo bene, perché le altre volte c'ha questa ventola fortissima, o è cupo, o è saturo, oggi sta uscendo bene. Ma sicuramente sto usando una cosa buona, qualcosa di grosso anche, retro. No, è il Saturn Echo, ciao, sì, è veramente bello la radio, bene, bene, bene, bella amplificata, bella. Proprio veramente bella, complimenti, Pompo. Eia, grazie dei complimenti. Questo è il Saturn Echo. Oi, che avevo preso l'altro giorno. Due mesi fa, un microfono sale naturalmente, eh? Vabbè, se io dico uno esce bene, non so lì per farlo felice. Se uno esce male, esce male. Come a me mi dicono che quando esco male, esco male. Quando mi dico esco bene, esco bene. Però cerco di curarla la radio. Ma esci in mare, vedo che non è. Tu cosa entra a fare? Aspetta che ho spento il cicafuso in PMR. Perché ti ha cancellato una tappa di che quello omologato. Ahia. Così è Luca. C'è sempre quel problemino, anche un radiomotore l'ha evidenziato. È roba che devi lavorare con antenne poco performanti, altrimenti va in saturazione e si silenzia tutto. Arrivo. Sì, che è strano questo coso, questo computer. Invece, vediamo se accende. No, non ce la fa la batteria. Che avvicinante. Ma non accende la batteria. Non è accendente. Non la so fare quella risata, porca miseria. E devi stringere la canna. Tu lasci aperta o ce la fai? Adesso vediamo, non mi sta così, se non fa le balle, sto attaccato, se non c'è qualche componente, non lo so, qualche condensatore, ma mi so, è un problema. Oh, sai che porto il cane? Dai, un attimo, arrivo su. Se ci siete, adesso ho preso per voi. Sono qua. Come vi siete con questo microfono, Marco? E chi è questo? Io, Antonello. Sto usando quel cesso del ZX-40. Atroce, Antonello. Dalle stelle alle stalle. Sembra un citofono, non ti dico come, capito, fatto a forza, sforzato, brutta proprio, veramente brutta. Ma guarda che io ho lo stesso apparecchio tuo, però esce persino meglio del tuo, io non ho capito perché. No, no, so, io avevo lasciato il microfono girare suo, ma parecchio fuori. Ehi, è l'unica cosa che mi ha dato un pochettino, la vetta. Poi del resto ho messo il microfono quello al mare, insieme mille, e basta, non ho fatto altro. È bruttarello, bruttarello in modulazione. Ascolta, fammelo sentire in FM. Aspetta. Allora ti dirò che in confronto è già migliore in FM, per quanto sia già barattolato, è molto migliore della M. Saburotto. Però rispetto alla M è già più forte, cioè la M è agghiacciante. Aspetta che facciamo una M che ci sia anche lui, vai, passami. Bello, attimo in modulazione che c'hai nel pianeta, sembra una telefonata. Non è mi copi bene il penne, io non lo uso mai nel penne, però, mai. Qui nel penne dovrebbe avere più watt, non mi ricordo se siano gli stessi della M o se siano di più, credo di più. Vediamo l'amperaggio. Non lo so. Ma non mai c'è un FM con la parte. Allora, test 1, 2, 3, prova, parlo con voce normale, sempre un po' di taglio al mic in modo da non sputazzare troppo. Com'è? Del caffè, mi sono dimenticato di fare il caffè, se lo faccio, mi allontano. Capitolo, quello funziona né più né meno come quello che hai già, non è che ricevi meno, è di quello due microfoni, uno più bello dell'altro. Sì, già l'ho visto, a me mi ha deciso di pulire radio così, no, adesso già avessi tipo, adesso non mi ricordo, quello Polmar, quello è bello, cazzo. Bello, mi piace un sacco, l'ho fatta tipo 200 euro, ma lo voglio, a me non mi ricordo usare, lo voglio, insomma, per avere più cose, più ricezione, dai, questo qua abbia qualche cosa che ci va meglio, e poi anche per la batteria, perché devo stare sempre con questa cavolo di batteria, molte volte me lo dimentico acceso, poi lo torno, lo trovo spento perché scarico. Non lo voglio, cioè non voglio fare fuori questo. Adesso vediamo. Vai a fare il caffè a tua madre, Marco, vai. Ehi dai, vi lascio, modulate voi. No, io avevo, bello era lo Yaesu. Addirittura la quadribanda FM, solo FM faceva 29, 50, VHF, UHF. Quello era un vero però degno di apparecchio amatoriale, degno di nozza, ma alla fine. Per la patente ho lasciato perdere, non me ne è passata la gana e ho venduto tutto. E per non parlare dell'857 poi. Vero Antonello? Ehi, e poi ho avuto l'inculata io. Quello. E vabbè. Me ho preso due di apparecchi, ho preso Saturneco e poi quell'altro arancione. Mi aveva dato Natalino l'NE 555 e poi si era comprato, è venuto Tonino, si era comprato immediatamente, è venuto a casa, mi ha suonato la porta, ma io ho scelto l'apparecchio che voglio quello, ho detto vabbè pigliati quello, qual è il problema, e si era portato via lui. E con qui c'erano 50 euro mi erano rimasti, me li ho tenuti, me li ho spesi, capito? Tanto già bastava questa parte avanza. Adesso in seguito quando la giurana vado e mi piglio qualcosa di buono, come si deve. Questo però non si muove da casa, questo qua. Sempre il tubo si... Tranquillo, non si muove. Beh, già detto Simona, se fai una cosa del genere ci ti picchio, mi ha detto, quindi tranquillo. Vabbè. Ma quello che stavano tutti l'avevi venduto. Aspetta che non capivo, la fa, c'avevo lo scotch inserito, cazzo, tanto sbagliava una cosa, io dico, cazzo. Ma quello che stavo venduto, te l'avevi tenuto. Quello c'era Marco Petretto, l'ho dato a lui e poi lui l'ha venduto. Quello che mi hai detto tu, Antonio. nuova, è uguale identico a questa, avevo cambiato i trimmer, se ti ricordi. Allora, già aveva acceso, mi chiamava per il culo, ah vai, sei stato un cesso, comparti il mio, comparti il mio, molto meglio del tuo, eccetera, eccetera, mi sa l'incurata che hai preso, tanti... E ho detto, tu non ti preoccupare, che ci penso io, gli ho detto. Quando una volta che avevo comprato i pezzi nuovi, li ho messo, sono rimasto allibito, dice, ma questo lui dice non è quello che c'avevi l'altro giorno, no, gli ho detto, secondo te cos'è? Basta cambiare il trimmer, gli ho detto, ognuno ha il mestiere suo. E usciva, come tale guarda questo, usciva, perfetto, una bomba. Bravi, bravi, ma da niente, a di qua, da cosa, ma stiamo scherzando cosa? E così mi avevo detto, gli ho detto che non mi ha ancorato per niente, ho detto non ti preoccupare, ho detto prima, ho detto che sono sporchi, ho detto ci vuole poco cambiarli, gli ho detto, come li ho cambiati, è uscito perfetto, professione, ricezione e tutto. Ti ricordi era un bombo, anche il cosa avevo sistemato, lo Smith te lo ricordi che rimaneva, partiva dal 3, l'avevo smontato, sbloccato e partiva direttamente da 0 e avevo fatto tutte le regolazioni che volevano fatte, era perfetto l'apparecchio. Ma cavolo, è perfetto sì quell'apparecchio, ma se stavi scherzando, è che magari col tempo non è esatto usato, capito? Cazzo, sempre non mi deve aprire la bocca, Vani. Lo so, quando l'apparecchio rimane fermo parecchio tempo, crea problemi, io ho problemi nel 2009 per dire, perché l'FM mi rimane spostato, in AM funziona benissimo, anche in banda laterale, solo in FM c'ho problemi, adesso devo controllarlo bene, se giù lo smonto, lo pulisco bene col CDC, anche perché la moppa rimane leggermente dura e quindi evidentemente non mi fa lo spostamento, sembra che sia capito, si spostava solo. Mi passo col CDC, quello che è volatile si chiama, così non ti fa la pappila, capito? E torna come prima, c'ha più di 20 anni, miglia, lo sai, io te vedo, è veramente un bombo, addirittura anche un monogatto dietro. Ciao, lo sai che ho scoperto, perché non andavo in rosmetria, l'antenna, cazzo, giravo, e non riuscivo a sovrammettarla. L'ho fatto a 4,80 metri e ho rosmettato subito. Beh, c'è le misure con l'antenna lì, già lo sai. Se sbagli poco è un casino. Invece no, questa che ho io qua è diversa, c'ha le viti obbligatorie. Ah, quindi l'ultimo modello quella là, come quello che ha preso Saverio. Sì, no, questo è il modello precedente che l'avevano fatta così, ho controllato su, non si è staccato nulla, quella là invece aveva difetti, infatti gli ho detto al costruttore, ma ho capito perché Saverio non riusciva a regolare la trazione aria, sicuramente ci mancava un capicorda pure, e poi vuole fatta, cioè vuole messa giusta, l'ultima che hanno fatto è così, cioè i cose obbligatorie, ma è anche giusto però, beh, quello sì. No, ma fatta così, vabbè, prima c'era la, quella, mi ricordo quella lingua c'aveva Marco, c'aveva i segni, c'aveva Ceresti, eccetera, eccetera, per poterla installare. Se sbagliavi di misura dovevi pigliare 1 metro e fare la misura giusta. 4,80 metri all'incirca, e così, il manuale. Ho capito. E vabbè, io arrivo, l'avevo usato una volta per carità. Tu hai giubilato, no, l'avevo regalata a cosa? Antonio Manconi, suo ausilio, ho detto Antonio, ho provato, ho detto baracchino, l'alimentatore, che io ho detto ce l'ho già, e così te ne installo il baracchino, ho detto su. E ho trovato le due baracchianti un piatto verticale era era lì, gli ho piazzata, era perfetta. Arrivavo tranquillamente a Sassari. La mia vende bene, non ho problemi. Voglio che vende, se è piazzata in un punto, io dell'Izzedu, la mantella che ho avuto era la Grand Prix, poi ho avuto la Ringo, quella che possiede avere la bobina 3 come in alluminio, c'avevo la bobina fatta in rame, era molto più larga, il doppio, e poi c'era un borsetto c'era che dovevi spostare, però quella fatta in rame, l'unico difetto che c'aveva dopo un po', 6 mesi, un anno, quello che era diventava verde il rame, capito? Allora dovevi salire su, pulirla con la carta abrasiva, eccetera, eccetera. Allora ho preso e ci ho messo la vasellina sopra, il glass. Da quel giorno il rame rimaneva sempre perfetto. Stavo dicendo, bisogna fare così, non è un casino, capito? E io gli dico, ho cambiato il connettore, gli ho saldato il coso, praticamente l'ho rifatta a nuovo, proprio perché avrò problemi. Mi sono convulso e me l'ha già fatta piano piano. Però ti dico che va bene. Voglia che stai scendendo bene, te l'ho detto. Se lì sollevi il palo, metti un palo a 6 metri, non sai quanto pompi lì. Già, non so. Ma perché l'avevi tolta tu da dove abiti? L'avevo tolta perché non serviva a nulla, non può fare a nulla. La verità. Allora ho preso, poi c'era quel difetto della, c'è la spugna, capito, alla base, si riempie l'acqua e lo stiletto se ne scendeva in giù, andava in corda. Allora avevo fatto la modifica, avevo messo la vite, fratto, e da quel giorno lì non si muoveva più, perfetta era. La Ringo. Io ho usato antenne, io, la Firenze 2, la cosa. La direttiva addirittura per il Zedo c'avevo due elementi, grossa. Poi avevo costruito la direttiva io con le antenne di coso di tipo Sardegna, avevo messo due radiali di Grand Prix e un motore di Teggio Cristallo per farla girare. Ma la mia la verità funziona bene, la mia. Molto bene. A voglia, mi sento benissimo io. Poi da lì già spara già con l'antenna. Ciao Paolo, a me funziona bene, non ha problemi. C'è anche una cosa sul tetto, la Storm, cioè. Sì, vabbè, la Storm non è che ci ha aperto questo guadagno, l'ho butta anche quella. La cosa. C'è una cosa, ce l'ha, tipo quella, l'avevo modificata io, l'ho aperta, gli ho smontato, gli ho tolto tutta la carica in rame, siccome la carica in rame è da 5,50 m, gli ho messo filo elettrico, gli ho messo, da 1,5 m, poi l'ho portata da Nicco, e tu Nicco, prova l'antenna, vabbè, se avevo pensato il baracchino dove c'era il 5, tu figurati, a fianco al bagno, messa sopra la cassetta della birra, qua arrivava 9,20, Nicco, senza massa, senza nulla. Ora, quando sta arrivando, Antonio? 9,20, sì. Sì, già va bene. Ha voglia. Io non sto neanche pompando, cioè sono normale. Ci arrivi benissimo, a voglia, ci mancherebbe. Abbiamo provato un Ringo, ma questo qua non va bene. Aspetta, hai provato? Con l'antenna Ringo, ma con questo apparecchio non si addice. Non lo so, forse magari tutta quella carica non la sopporta, boh. Vabbè, poi in seguito te la comprerai una antenna come si deve, adesso ti metti su di la parte nel mesetto, 10 euro per volta e ti compri una bella antenna, capito? E te la metti lì al centro storico dove sei tu. scusa, la Storm sto parlando, non la ringo a bomba a volte. La Storm, no. Luca, ma sei tu? Mi sono sbagliato. La Storm, no. No, la ringo che esci fuori, ya. La Storm che ha qualche problema. Vabbè, un rotto di coburo, eh. Ah, no, la Storm, già. Quella che è anche la conosci anche tu. Però la ringo già. Compra molto di più della Storm, è voglia. Ciao, prendi il tempo sulla bruma, veloce, veloce. Ehi, approva, approva. Ma no. Sto andando. Che succede? Ha attaccato la Storm con l'apparecchio e boh, ti sembra l'altro in tilt. No, no, è meglio questo. No, ma Antonio, una cosa strana. Iniziavi a trasmettere e scompariva il segnale di botto, almeno qua, questo apparecchio. Ma non va bene con questo apparecchio. Con l'altro ci può provare, ma con questo, manco male, ma io. Vabbè, la Storm pochi watt li avrei messo, infatti è un po' ambigua. È un carico fittizio, vabbè, ma è l'onfia come antenna, può dare 20 RF, che ne so io. Sicuramente, non va bene per questo. C'è la carica che fine è fine, hai capito? Se tu gli cambi la carica lì da dentro, la smonti e gli metti il cavo da 2,5 elettrico, vedrai come esce con quell'apparecchio lì. È che il filo è talmente fine di rame, non ce la fa, capito? È troppo fine. Antone, troppo no, io mi ricordo che ho visto una foto di quella aperta, sembrava un mollone, sembrava, non è nemmeno un capello l'avvolgimento, a meno che non abbiano fatto versioni diverse. Io quello che ho visto di bazooka l'ho smontata e il cavo alla fine, poi ci ho messo il cavo da 2,5 e poi l'ho lavorata lì con l'antenna che c'era pesato nella da lì l'ha tolta e ce l'ha in... al circolo ce l'ha, capito? E usciva benissimo, stazionare 1-1 anche appoggiata come si chiama, talmente, 5 metri 50 il cavo, giusto, arrotolato, l'ho preso, l'ho richiusa, l'ho lanciata nel paletto che c'avevo fuori piazzata e usciva benissimo come antenna. Qua a vedere, com'è? Vai Anto, fai un passaggio lungo. 1, 2, 3, prova. 9 più 15. E radio... discreta? La radio è quella che uso sempre. Sì, vabbè, un po' diversa dall'altro, dai. L'altro è più calda, più tutto. 9 e 15 qua. Antonella, a te? 9 e 20. Così è un po' orfovera. Oh, conta, Anto, conta una cosa, questo è cieco, il transmitter segna meno, cioè se sei 9.30 segna 9.20, se sei 9.15 magari è 9.20, è un po' cieco, è un bel cieco. È così, con i watt normale? 9.5, cioè se sei 9 però lampeggia la prima attacca del P10. Da te, Antonè? 9P10. Ma è così, Aspetta che provo, no no fermo, resta così, che attacco il 3009 un attimo, voglio vedere il segnale, cacchio. Ma così è un'altra storia, no? Ci sono? Io già ci sono. No, io ci sono, che se sbaglio il microfono brucio l'apparecchio. Ah, già ci sei. Allora, col 3009 quanto arrivo? Prova. 1, 2, 3, prova. 9.25 pieno. Prova come prima, le condizioni prima, con l'altro, con la bazooka. Aspetta, accendo. Prova con questa. Liscio, liscio, come l'ultimo passaggio di prima, prima di cambiare apparecchio io. Allora, così è liscio, com'è? Vai, non ammala. 9.15. Pensa, l'apparecchio, quello, allora, l'apparecchio presidente mi segna 9.5, invece sei 9.15 quasi. Quasi 9.15, sì. È così com'è? Vai. 1, 2, 3, prova. E non cambia assai, Antonio, non vedo la differenza qua, è troppo piccolo lo Schmitzer, ci vorrebbe la lente di ingrandimento o il microscopio, meglio. Ma adesso c'ho più potenza però. Ma tu non, cioè ci vorrebbe lo Schmitzer del K, non, è troppo millimetrica, decimillimetrica la differenza, e poi la vista mi sta lasciando. Ciu, già è roba da... adesso mi devo rinnovare la patente, mi vedrai ogni giusta che mi tirano. Ma è piccini. Sì, sì, ce li ho già peraltro. Ce li ho già. È che li metto solo per guidare, capito? Vedrai, mi metteranno l'obbligo lenti, quindi me li dovrò... non me li devo dimenticare d'ora in poi. Il codice ti mettono sotto forma di codice. Quello significa obbligo lente, capito? Ascolta, dai, io vi devo lasciare, vi do una buonanotte a tutti, che qua c'è un sonno che non mi regge più in piedi. Sto già lavorando. Ciao, ciao a tutti! Ehi, Antonio, ehi. E infatti quel lavoro poi è stancante, mamma mia. Ci sentiamo, buona serata, buon tutto e alle prossime. Vai Antonio. Ciao Antonio, ci sentiamo a domani. Buon queriti, buon tutto. Luca era andato a portare il cane e sarà fuori ancora. E qua c'è il gatto che ci sta dando un po' da fare. Vediamo come risolvere. Cucinalo. Guarda, mia nipote c'ha il coniglio, anche col gatto vanno ben d'accordo. Allora facciamo una casseruola metà coniglio, metà gatto e patate. Beh, allora facciamo così. Poveretto. Vabbè, eppure in certi posti o per fame o per cosa se ne mangiano i gatti. Deve essere anche buono, discretamente buono il gatto. Sai che non lo so, non ho mai assaggiato il gatto. Sì, di solito te lo fanno a tradimento in qualche paese, no? Dicono il coniglio, poi cominciano a fare miau miau, capito? Magari tu sei pure amante degli animali, ti viene anche il vomito poi. E allora sì, ce ne mangio io di quella roba. Adesso vediamo se c'è un film bello, porca miseria. Avrei voluto vedere, sai quale, che parla sempre di CB, di Baracchini, quello di quei camionisti ribelli, com'era? Con voi, mi pare fosse. È una figata, quello di Anatra di Gomma, te lo ricordi? Già me lo ricordo, tutta la fila dei poliziotti, e loro davanti, erano quasi un centinaio di camionisti di tutti gli stati. Poi ha detto io ti sparo, e quello ha detto spara già, che non c'è problema, tanto c'ho la cisterna, l'ha detto, che se ne fotte. E poi parlavano normali, no, alla radio, cioè non si sentivano effetti echo, io credo di vedere una cosa del genere, no? Tipo come fanno in America sul canale 6, come si chiama quella cosa che fanno, come sul 45, il Super Bowl lo chiamano loro. E se no parlavano normali, sempre con i termini giusti, 10-5, il codice 10, quella roba lì. Oppure era bellino anche Radio Killer, fanno quello scherzo col camionista che poi risulta essere un mezzo serial killer, ti ricordi? Se per questo ci sono anche i cugini Duke, capito? C'erano gli apparecchi in macchina, c'erano anche i poliziotti usavano gli apparecchi tutti in legno, stazione base. Ma sembrava quasi che parlassero anche tra di loro, in qualche puntata vedevi lo sceriffo che parlava con loro, è come se avessero una banda, come se lo sceriffo di Contea all'epoca usasse la banda CB, era antenne lunghe, ti ricordi, era messa con quel famoso attacco, oppure forato, con le macchine tre volumi, no, dietro, dove c'è il baule, il trunk mount, com'è che lo chiamano? L'attacco a baule, per l'antenna. Sì, anche i monologhi per questo lo usavano, e quel monologhi grosso grosso lo attaccavano dietro alla, al cofano, dove c'è le, il centro del cofano, e parlavano tranquillamente. Erano belli quei telefilm, Azzart. Stanno ridando, Antonè, nel pomeriggio, tipo le due e mezza. L'ho visto per sfuggita oggi, mamma ha acceso la TV quando siamo tornati a casa. E Chips, quello dei motociclisti, quella puntata anni 70, no? Il biondino e quell'altro lì, quell'altro messicano. Carine, molto carine, poi tutta roba che abbiamo visto in gioventù, quindi per i nostalgici va bene. Le radio ovviamente erano Motorola, quelli dei poliziotti. E le moto, adesso c'è il dubbio, le moto mi pare fossero Kawasaki Z750, può essere, boh, non me lo ricordo. Questo avesse qualche manico sessuale. Non mi ricordo se è un Kawasaki quella moto lì oppure la di Davison. Beh, no, io sapevo Kawasaki, quattro cilindri fronte marcia, credo 750. L'avevo visto su internet da non molto. Sì, tutte belle quelle serie là. Boh, adesso è tutto. Vabbè, adeguato ai tempi, però noi ci siamo cresciuti con quelle serie lì, era tutto più bello. Bene, chi è che vuole entrare? Avanti, avanti il bacino. Niente, non me vuol dare più bacino. Aspetta un po', ma mi ascolto io qua. Perché no? Hola. Ah, perché c'era lo squelch. 1, 2, 3. 1, 2, 3, prova. La ricezione è troppo cupetta col presidente, lo sai, da toni bassi. Per fortuna li puoi regolare, puoi mettere un tono più acuto o più basso a scelta da menù in ricezione del presidente. Sto dicendo, Antonè, ho capito, quel presidente che stai usando adesso? No, adesso è il 3009, dal bip si riconosce. Quello di prima del presidente, aspetta che lo rimetto. E mi dice quale ti piace più la modulazione, se questa, sicuramente questa o quell'altra. E voilà. Chiappa, chiappa. Ecco qua, stesso volume di modulazione, sempre di lato al mic, leggermente di fianco in modo da non sputazzare. Vedi un po' com'è, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre uguale alla radio, precisa. Hai detto uguale? Cioè è simile, molto simile. Eia. Vabbè, meglio così. Meglio così, dai. Microfono di serie, distanza attaccato al mic. E così a 10 centimetri, come una pigiona tua. Ui, ui, ui. Ui, ui. Vediamo finché possiamo. E qua non si sa come andiamo a finire. Tra Putin e Bidet. Hai visto la bomba che ha preparato? Non mi fa un cazzo quella di Hiroshima, a casa. Ce l'ha Putin, basta una di quelle, ha detto, che farà sparire l'Ucraina in un colpo solo. Sì, non ha fatto niente. Antone, non ha fatto niente, le bombe ce l'hanno sempre avute, tutte e due, USA e URSS, e altro che quella. Non ti ricordi negli anni 60 la bomba Zar, 50 megatoni? Praticamente faceva ustione di terzo grado a 100 km di distanza. La bomba atomica più potente mai testata sulla superficie terrestre. Una cosa folle. La volevano fare addirittura a 100 megatoni, ma hanno avuto paura di fare troppo danno. Dice che ha sfasciato le finestre a 1000 km di distanza. Capito, l'onda d'urto a 1000 km ha aperto le finestre di schianto, rompendo i vetri. In cos'era, Norvegia o Svezia, boh. O Finlandia, non mi ricordo. Faccia quello che vuole, Putin. Se può pigliare pure il culo, se lo ammazzano prima. Perché la gente russa sta morendo di fame, hai capito? Lui adesso sta facendo come gli zari una volta, capito? sa come si dice, come cavolo si dice, in testa lui. E se vuole impadronire di nuovo dalla, può arrivare fino alla, come la prima, dopo la seconda guerra mondiale. In pratica, vedrai che la Germania la divideranno in due, una parte russa e una parte americana, hai capito? Lui vuole di nuovo tutte le, la Polonia, la Jugoslavia, tutto lui vuole di nuovo, come la prima, capito? E vabbè, lui può dire giustamente che comunque non preferirebbe, no, che non, che l'Ucraina non fosse nella NATO, perché non vuole missili sotto la finestra, capito? Attaccati a lui. Come erano una volta i missili in Turchia, cioè a un passo dai loro confini, o comunque molto vicine. Ma, vabbè, meglio non pensarci. Era meglio che tu scrivergli, ascolta, tanto che non sai cosa fare, lascia perdere l'Ucraina, vieni a prenderti l'Italia, che è meglio, almeno ci butti fuori tutti questi partiti, comandi tu, almeno siamo a posto. Aspetta un attimo. Interessante, un calo di QRM, come mai? Eccezionale. Aspetta che mi misuro le stazionarie, fermo lì. Uno, proprio uno sta a uno, non si muove. Meglio così. È che non c'è più Gheddafi, se no, te lo dico, di una volta avevano scritto a Gheddafi. Dice, vieni e prenditi la Sardegna. Ui, ui, sta parecchio, più scalda più sembra che, la, che cali la, come si dice, la, il QRM, cioè appena lo accendi è rumoroso, poi è come se si calmasse, boh, non lo so, o in caso, o è calato il vento, è calato il vento? Boh, mi sembra di sì, mi sembra che già è calato, perché non ne sento molto il vento io qua. Adesso domani si riprenderà magari, peggio di quello di oggi, che quando sono passato via Carlo Felice, sono passato al centro della strada, gli ho detto, meglio una macchina che un albero, cazzo di pino. Era forte, allora il pranzo, cioè il pomeriggio ho dovuto legare la tenda perché stavo sbattendo forte, se no mi straccia i supporti, mi straccia tutto, la tenda al sole che usiamo in estate, per avere più discrezione, ho dovuto chiudere e legare, se no me la rompe. Figurati, dice vedere com'è il tempo. Vediamo un pochettino. Ci abbiamo un vento domani, se non voglio cominciare, 70 km orari adesso. Beh, cacchio, c'è sto telefono, non c'ho segnale, c'è un blackout della linea telefonica, come mai? Anche tu ce l'hai? No, io segnale 1 c'ho, no blackout, segnale 1 sale fino a 3, è strano, perché sono in alto qua, che la mobile sta oscillando, che ne stia scendendo cazzo di coso, il ripetitore. Se scendono di quelli è preoccupante. Adesso forse come l'ho messo in risparmio energetico gli ha, vabbè, adesso funziona, chissà da quando è così. Ah no, sto oscillando, passo da 2 picchi a quasi 5 adesso, sto oscillando, sta, quindi figurati, già c'è il vento, già qualche ripetitore deve essere che sta camminando da solo. È arrivata la notifica del superenalotto, jackpot ha raggiunto 160 milioni di euro. Te le immagini? Se fai 6, 160 milioni di euro. Come li spenderesti? Ho paura a chiedertelo. Ah, l'unica cosa mi compro la macchina. Che mi interessa più quella. Poi la casa non conviene, perché adesso se quando affitti la casa non manco ti rimbagari. Quindi mi faccio un bel viaggio, in traghetto non ci puoi andare, se no prendi fuoco fai la fine di quei camionisti. Cazzo. Boh, me ne vado alle Canarie. Mi compro casa lì e se la biego. No, credevo che mi avreste risposto tutto in troia, me li spendo. Sì, anche quello si può anche fare. Solo che ti pigli il culo, li cazzo, è meglio di niente. Ce la faccio a preparare per una condanna. No, ma io mi accontento anche di molto meno, io sono di... Di 20 marzo, te le immagini, vinci 160 milioni di euro. Voglio vedere sotto forma come te li danno, se soldi, proprietà o chissà che altro. Diventi matto, ti viene un infarto, come leggi il biglietto ti viene un ictus fulminante e non te li godi. Vita, quello già me li godo, no? L'ictus già non mi viene, se dovevi vincere una cosa del genere. Il problema è che non devi dire nulla a nessuno. Stai bevendo, beh, pigliate per il culo tutto, io sto uscendo, che mi sta chiamando, mi stanno chiamando. E sparisce la circolazione. Soprattutto i parenti, parenti non bisogna dire niente, aspetta. Sono io? Sì, prova, test 1, 2, 3. Hola. Ecco. Ai parenti non devi dire nulla, per carità. No, nessuno deve dire nulla. Però trapelano le notizie. Ma tu in casa dici, un attimo che vado a comprare le sigarette, e scompari. Tipico. E no, a chi l'ha visto? Me ne parlo di Arco, alle Canarie, cambia nome e cognome, perché non c'è pane biugia. Una volta che ci ho ritirato il sud, li ho messi in un'altra banca, se ne fotte. Marco il fisco mi trova. Sì, in qualche paradiso fiscale devi andare, capito? E dove non c'è estradizione anche, ricordati. Sennò ti vanno a prendere. Oi, oi, oi. Adesso qua. Io 2000 euro non lo puoi ritirare, quindi se dovessi ritirare vincere i soldi, devi stare molto attento adesso, perché ti denunciano pure. Hai capito? Vogliono sapere cosa ne fai di quei soldi, capito? Se è che magari fai qualcuno in nero. Ehi, aspetta, mi regolo lo squelch, lascia bianco. Ma non so perché c'è un silenzio spaventoso, prima c'era più QRM, è come se... Non lo so il vento, cavolo ne so, io adesso c'è una calma piatta, eppure i stazionari sono uno sta uno, boh, vabbè, meglio così. Adesso mi guardo la guida TV, vediamo cosa c'è in televisione. Io ce l'avevo quel film con voi, ma vatti a ricordare se era DVD, se era in videocassetta addirittura. Oh, vado a trovare. Che cosa? Quello di Anatomia di Roma? Eia, non mi ricordo in che formato ce l'avevo. Può essere che sia pure DVX, XVID, MKV, CQCQ. Ma mi ricordo se ce l'ho io, quella videocassetta, ne avevo guardo, io ne avevo quasi 200 di quelle di videocassette, quindi ne avevo conto, se ne scattavo guarda te la do. 4 videoregistratori ho, uno sopra l'altro, 3 funzionanti e uno è un po' il Philips, si mangia le cassette. Si mastica il nastro, proprio quello che ho tenuto meglio, offrire un usarlo se ci abbia dato, lo devo portare, boh, da Ennas, che ne so io. Ennas, ma cosa devi fare Ennas? Vedi in pratica il finaccio, la vedi qua se da vecchia, lo fai in avanti e poi indietro veloce. Senz'altro c'è la cinghietta da cambiare.